Anche questa domenica ci mettiamo alla scuola del Vangelo, avendo Gesù come il Maestro. Ascoltiamo le sue parole, guardiamo i suoi atteggiamenti e impariamo. Che cosa possiamo imparare oggi da questo episodio chiamato la guarigione del servo del centurione? Matteo capitolo 8, versetto 5 e seguenti. Anzitutto impariamo una cosa che già conosciamo e che Gesù si dimostra il creatore, colui che può comandare alla natura perché l'ha creata lui. E questo non è un insegnamento da poco. Osservare il Signore che comanda alla malattia e subito lo lascia. C'è ancora un altro insegnamento comune, peraltro, al Vangelo di domenica scorsa, la moltiplicazione dei pani, è comune ad altri brani. Gesù agisce, ma vuole sempre una collaborazione nostra. Là ha voluto i 5 pani e i 2 pesci, qui vuole la fede di questo centurione. Avvenga per te come hai creduto. E da quell'istante il servo fu guarito. Solo che qui il Vangelo ci presenta in questo episodio molto bello e molto toccante una fede veramente grande. Non è ebreo, è un soldato dell'esercito romano. È uno dell'esercito occupante, eppure dimostra una fede che si merita la lode di Gesù. Non ho mai trovato una fede così grande in Israele. Perché? Che tipo di fede ha? E perché lui ha detto: Maestro, io so bene come ci si comporta quando uno comanda. Io devo obbedire ai miei superiori, ma a mia volta modestamente comando 100 soldati, centurione. Se a uno gli dico fai questo, non c'è dubbio, lo fa subito, scatta. Tu, se vuoi, senza venire a casa mia, perché io non sono degno di riceverti, tu puoi comandare alla malattia ed essa scatterà, ti ubbidirà. Caspita, che fede! Veramente toccante, veramente commovente. Qui dunque abbiamo Gesù, Signore della natura, Gesù che chiede la collaborazione, la fede tua. Ma poi io noto con gioia un altro particolare. Gesù si mette a lodare quest'uomo. È così difficile lodare le persone, amici, e noi lo sperimentiamo spesso. Magari uno dice: oh, sì, ero capace anch'io, beh, sì, l'hai fatto tu, ma quante volte noi siamo capaci di lodare? Perché occorre umiltà. Perché devi riconoscere la grandezza, la bravura, la capacità di chi ha saputo agire così, così. E allora io oggi chiedo a Gesù: Gesù, dammi la capacità di lodare, soprattutto per noi che in qualche modo abbiamo un piccolo o meno piccolo potere. Un prete non ha più nessun potere, però qualche cosa c'ha ancora. Un genitore non ha più nessun potere, però un qualche cosa c'ha ancora. Un capo ufficio c'ha ancora qualcosa, un capo reparto. Ma che fatica! ricevere delle lodi. Che fatica sbilanciarsi e fare delle lodi. E purtroppo qualcuno non fa le lodi e dice, beh, ma è sottinteso. No. Perché i rimproveri, tu non li sottintendi, i rimproveri li dici e come? Le lodi no, i complimenti no, anche tra marito e moglie, eh? Rimbeccarsi è molto facile, ma fare una lode, eppure in casa nostra se fossimo capaci di farci le lodi, moltiplicheremmo le forze. Un genitore che ha il coraggio di lodare suo figlio, un figlio che ha il coraggio di lodare suo padre e sua madre esplicitamente. La lode fa grande chi la pronuncia e moltiplica le forze di chi la riceve. Io conserverei, cari amici, questo insegnamento. Imparare come ha fatto Gesù oggi a lodare. Se tu lodi qualcuno, non ti sminuisci ai suoi occhi, anzi diventi grande. Ma c'è ancora un altro insegnamento che io trovo in questo Vangelo. Lui loda uno straniero, uno che non è della sua religione, e in compenso bacchetta severamente quelli che condividono la sua fede. Verranno da lontano, siederanno a mensa con i nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e voi sarete cacciati fuori nelle tenebre. Come mai? È perché non basta far parte di una famiglia, far parte di una fede, bisogna credere in Gesù. E se occorre coraggio per lodare, certe volte occorre coraggio anche per dire la verità, non dico rimproverare, ma per dire la verità. Tant'è vero che tante volte anche i sacerdoti sono tentati di mimetizzarsi e non dire più la verità. Parli con una persona, si confessa. Alla fine scopri che non è sposata. Dici, ma come mai? No, non siamo mica contrari, ma adesso ci penseremo. Bene, ripassa a confessarti quando ci avrai pensato e quando ti sarai sposata. Vivi in peccato mortale. C'è un sacramento che tu non osservi, eppure potresti, sei libera tu e libero lui, ma tu non hai consegnato il tuo amore a Gesù. Brava gente, ma non facciamo niente di male, facciamo anche del bene, mi compiaccio con voi, ma la tua vita, il tuo amore l'hai consegnato all'altare di Gesù. L'hai fatto benedire da Gesù. E poi tu passi per severo, perché altri preti invece fa mica niente. E tu semplicemente dici, il Vangelo parla così, così. Si salta la messa alla domenica. Eh beh, ma ogni tanto ci vado. Sei un bravo cristiano, spero che tu faccia così sul lavoro, che ogni tanto ci vai. magari i giorni pari che porta fortuna, quelli dispari stai a casa perché porta sfortuna, vero? No, ma amici, dobbiamo metterci alla scuola di Gesù, saperlo dare, ma parlo per me sacerdote, saper anche dire no, le cose non stanno così. Verranno quelli anche da lontano, e voi che siete di questa razza, della mia stessa lingua, della mia stessa fede, siete in peccato mortale. E cari cristiani, bisogna avere, chiediamo la grazia al Signore oggi di saperlo dare coloro che credono in Gesù e di saper distinguere chi, pur dicendo di credere, non ha consegnato la sua vita a Gesù e non lo segue.